È il 25 agosto e sono rannicchiata all'ombra di un enorme masso che mi protegge da un sole pallido e accecante. La luce bianca si riflette sulla sabbia di questa spiaggia lunghissima. Non ne vedo né l'inizio né la fine. La sabbia è giallognola e troppo calda. Mi trovo nel nord della Francia, in Bretagna, e il mare davanti a me è il canale della Manica. Di fronte a me, in lontananza, quasi vedo l'Inghilterra. Sono nel confine ultimo dell'Europa del Nord e come un gatto pigro mi godo il caldo afoso, l'odore di palude e le lontane grida di bambini biondissimi coperti di crema solare. Quando il caldo si fa insopportabile, mi alzo e zampetto assonnata verso il bagnasciuga. A pochi metri dal mare ci sono alcune pozzanghere puzzolenti, dove galleggiano delle alghe di un verde brillante, fluorescente. Allungo la mano verso l'acqua per toccarle. Appena tocco l'acqua fresca, un brivido mi percorre la schiena, giù per l'osso sacro. Un brivido fresco di piacere che mi salva per un secondo dall'afa del giorno. L'alga alla vista sembra molliccia e pelosa. La prendo in mano e la tiro fuori dall'acquitta verde. Emergendo dal liquido, i capelli verdi le si sgonfiano e si appiattiscono. Hanno lo stesso aspetto dei peli del mio cane, che proprio adesso sta uscendo dall'acqua del mare con un sorriso scemo stampato sul muso e una bella piega liscia. Guardo l'alga da vicino. Ha un odore acre che mi punge il naso e ha riflessi verde acqua che brillano alla luce del sole. Mi rendo conto che è un'alga un po' strana. È composta di tante piccolissime fettuccine verdi, tanti nastrini minuscoli che si aggrovigliano tra di loro, ammucchiandosi uno sull'altro, come dei piccoli fagiolini lunghi e sottili. Che alga strana, penso. L'alga mi guarda e ride. Ma non sono un'alga. Come no? E cosa sei? Sono il verme tira e molla. L'unico consiglio è questo: invecchiate in fretta, così la smettete di rompere i coglioni. Io consiglio a tutti i giovani di avere una passione e di tenersela stretta tutta la vita. È trendy dire sono bipolare. A voi giovani spetta il compito di trasformare l'Italia. Se io potessi dare un consiglio oggi a un ragazzo, direi sbaglia. Allora dico, ma ragazzi, a 18 anni iniziate a lavorare, ma perché è sparito il mondo di voler fare impresa quando hai 18 anni e 20 anni? La formazione della classe dirigente dei prossimi anni, su che cosa si baserà? Chi c'ha bisogno dei cassandre? Ci abbiamo bisogno di soluzioni. La Sim sagittifera roscofensis è una specie di alga che in realtà non è affatto un'alga. Bastano pochi ingrandimenti al microscopio per notare subito che quella che sembrava un essere vegetale è in realtà un agglomerato di vermi. Sono vermi a tutti gli effetti, sono letteralmente dei vermi, degli animali molto piccoli, lunghi pochi millimetri, che vivono agglomerati tra di loro. A guardarli presentano un colore verde brillante, molto evidente, ma i loro corpi sono in realtà traslucidi. Il motivo per cui appaiono verdi è che i tessuti di questi animali minuscoli sono pieni di cellule di un'alga chiamata Platymonas, di colore verde, che dunque si vede attraverso il corpo trasparente del verme. Le alghe nascono, crescono, vivono e muoiono all'interno del corpo pallido dei vermi, da secoli e secoli. I vermi diventano delle specie di serre mobili per le alghe, che sguazzano nel mare al calduccio e assorbono tutta la luce che arriva loro, permettendogli di fare la fotosintesi clorofilliana. Tutte le sostanze che le alghe producono, come rifiuto della fotosintesi, vengono scaricate direttamente in circolo nell'organismo del verme, nutrendolo. Il verme infatti si nutre degli scarti dell'alga e l'alga si nutre degli scarti del verme, ognuno mangiando gli scarti dell'altro e nutrendosi felicemente. Verme e alga sono così felici insieme che il verme, che in teoria dispone di una bocca, di fatto non la usa, se non nel primissimo periodo della sua vita in cui vive come larva. Piacere, io sono Cassandra. Io sono il verme tira e molla. Tira e molla? Perché ti chiamano così? Perché sono un po' alga e un po' verme, ma non sono né alga né verme. Siamo un alga verme, un verme alga, siamo un vermalga. Apro internet e scopro che in inglese la Sympsagittifera roscofensis ha vari nomi. A volte la chiamano Roscoff Worm, perché è stato scoperto per la prima volta a Roscoff, in Bretagna. Altro nome è Mint Sauce Worm, cioè verme di salsa di menta. Devo ammettere che mi fa un po' ridere, anche se mi dispiace per quella povera vermalga che, per un gioco di similitudini, si vede trasformata in una salsa di pesto di menta e vermi e alghe. Un patè verde brillante. Altri invece la chiamano Shilly Shally Worm, dove Shilly Shally in inglese vuol dire tergiversare, procrastinare, sprecare troppo tempo senza riuscire a prendere una decisione quando non si sa bene dove sbattere la testa. Questo è lo Shilly Shally, un tira e molla di indecisione. Il verme è indeciso, esitante e titubante. Un giorno si sente un'alga e un giorno si sente un verme, ma deve prendere una decisione, non può andare avanti così. Lei è un verme o è un'alga? Qual è la sua identità? Questo verme è confuso! Cara vermalga, come ti capisco. Sei troppo queer per questi accademici, ossessionati con le definizioni. Non sanno gestire le moltitudini. Dottore, mi gira tutta la stanza. Dottore, lo fatto con una rana. se, in qualche modo assurdo, potessimo togliere ogni cellula di alga dal corpo del verme, il verme morirebbe immediatamente. Questo perché verme e alga si sono coevolute insieme, nei secoli e nei millenni, creando un delicato equilibrio vitale. Questo processo si chiama simbiogenesi. Si dice simbiogenesi quando due specie diverse instaurano un rapporto di simbiosi permanente, diventando insieme una terza specie. Secondo la biologa Lynn Margulis, la simbiogenesi non vale solo per alcune specie, ma l'idea stessa di evoluzione della specie si basa sulla simbiogenesi. In qualche modo, la creazione della vita stessa, quindi di tutte le specie, si è basata e si basa ancora sulla creazione continua di rapporti di dipendenza e collaborazione tra organismi diversi, siano animali, vegetali, funghi o procarioti. Secondo la Margulis, la vita umana, animale e vegetale è una lunga storia di rapporti di simbiosi e di interdipendenze. In quest'ottica è quasi impossibile parlare di individuo, tanto che Lynn Margulis questo termine lo usa spesso tra virgolette. Lei, invece che parlare di individuo, parla di olobionte. Olobionte è il termine che si usa per definire quello che abbiamo detto finora, ovvero un'entità composta da organismi diversi che vivono così a stretto contatto, collaborando tra di loro, da diventare interdipendenti. Si comportano come una cosa sola, ma in realtà sono moltitudine, tanto che diventa difficile capire dove finisce uno e dove inizia l'altro. Da questa prospettiva, ogni organismo potenzialmente è un olobionte, e ogni olobionte è un ecosistema, in relazione con altri ecosistemi. Vermalga è un olobionte. Vermalga è un ecosistema. È vero, anche io sono un olobionte. Il mio intero corpo è invaso di organismi. Le micorrizie dei funghi, che colonizzano con precisione millimetrica i miei tessuti, crescendomi dentro e diramandosi attraverso la pelle delle mani, delle braccia, delle gambe. Le colonie infinite di virus nelle mucose umide del mio sistema respiratorio, nel naso, nella gola, giù fino ai polmoni. C'è una fauna nella mia gola, una fauna di streptococchi che a volte si riproducono a miliardi in placche bianche e a volte mi proteggono dalle infezioni esterne. E poi i batteri, che da più o meno 26 anni vivono sotto le mie ascelle, nella vagina, nel colon. I batteri che mi danno un odore, che mi fanno puzzare. In ogni anfratto del mio corpo nascono, vivono, crescono, si riproducono e muoiono organismi. Nelle orecchie, nel naso, nella gola, sotto le unghie, nella pelle, tra le tonsille, tra le cosce, dietro le ginocchia, nel colon, quasi ovunque ci sia un ambiente caldo e umido. Le interazioni fra queste diverse specie viventi sono così fitte e complesse che possiamo dire senza dubbio che il corpo umano è un vero e proprio ecosistema. Il corpo è un pianeta in miniatura. Se il corpo è un ecosistema, di sicuro l'intestino ne è la foresta amazzonica. È divertente che la foresta amazzonica venga chiamata il polmone del pianeta. In realtà la foresta non sembra affatto un polmone. Sembra invece a tutti gli effetti un lungo e fitto intestino, buio, umido, puzzolente, pieno di villi e brulicante di un fitto sottobosco di vita microbiotica, pieno di organismi con una vita sociale attivissima. Un tubo lungo 6,5 metri, una fitta brulicante foresta incantata, abitata da creature mostruose, spaventose, piene di poteri di cui ignoriamo l'esistenza. Una foresta che fa da confine fra due mondi, quello interno e quello esterno. Come la foresta amazzonica, anche l'intestino ha una biodiversità che va tutelata. La flora batterica, o microbiota intestinale, è l'insieme delle creature che abitano nell'intestino umano. Intanto ogni persona ha un microbiota diverso, e la composizione della flora batterica è quello che ci definisce, un po' come l'impronta digitale. Due gemelli monozigoti, che hanno un patrimonio genetico uguale al 99%, possono avere un microbiota diverso per l'80 o il 90% della sua composizione. Quindi la flora intestinale è una delle cose che ci rende un ecosistema unico. La popolazione che abita il nostro sistema gastrointestinale è quella che ci permette di digerire le cose. E ovviamente più la flora è diversificata, più saremo in grado di assimilare nutrienti dal cibo che mangiamo. Ma l'intestino è anche l'organo che più di tutti determina il buon funzionamento del sistema immunitario. Avere un intestino sano vuol dire avere le difese immunitarie alte. Più è diversificata la flora batterica e meno il corpo è a rischio di ammalarsi di malattie infiammatorie, ma anche malattie cardiovascolari, asma, allergie, obesità, diabete, cancro al colon, Alzheimer, malattie immunitarie, disturbi d'ansia e disturbi depressivi. Questo perché un microbioma non eterogeneo non riesce a garantire una risposta immunitaria equilibrata di fronte al rischio di malattia. Un intestino abituato ad avere buone relazioni con tanti tipi di microrganismi che lo abitano riesce a gestire meglio il rischio di malattia e instaurare relazioni simbiotiche più efficaci. In media, i cittadini dei paesi del nord del mondo hanno gli intestini meno diversificati del pianeta, quindi con la biodiversità intestinale minore. Questo dipende da tantissimi fattori, tipo l'uso intensivo di antibiotici, l'inquinamento, ma anche dal fatto che il cibo che mangiamo cresce su terreni sterili e poveri di nutrienti. La deforestazione del pianeta e le monocolture intensive stanno uccidendo il microbioma del terreno, che è collegato al microbioma dell'intestino. Quando sparisce biodiversità nell'uno, sparisce biodiversità nell'altro. La foresta di batteri è disboscata. Si abbassano le difese immunitarie dell'ecosistema. L'organismo si ammala e si infiamma più velocemente. Il mondo è in fiamme. Le foreste bruciano. Gli intestini pure bruciano. I microbiomi muoiono avvelenati di antibiotici. I sottoboschi batterici sono in fiamme. Ecosistema mondo, ecosistema corpo. Ecosistema mondo, ecosistema corpo. Come scrivono Rupa Maria e Raj Patel, le malattie infiammatorie che vediamo oggi non sono la causa delle reazioni disfunzionali del corpo. Sono le corrette risposte del corpo ad un mondo patologico. Per capire che cosa porta all'infiammazione, dobbiamo tenere conto delle condizioni a cui sono stati esposti i nostri corpi, nei luoghi in cui le nostre vite sono state ingabbiate. E per fornire una terapia, dobbiamo mostrare come possiamo sfuggirne. Ho la lingua in fiamme. Se ti tremano le vene dei polsi, sai che se vuoi te le stringo di più. Resta così, ti voglio guardare, penso che mi piaccia farti male. Se metto due materassi per terra, sicuro ci stanno dei sogni in più. Una testa così di pensieri mai detti, sento questa voglia che mi sale. E pesco le immagini dai tuoi nudes. Ti sei persa? Dammi la mano, andiamo a Milano. È un po' triste, tanto grande, ho lasciato le mutande da te. Posso prenderle, tanto costa niente. E se per caso poi mi trovo con la testa lì di nuovo, chiudi gli occhi, apri le gambe. Ho la lingua in fiamme. Ma al di là del piano simbolico, cos'è l'infiammazione a livello medico? Cosa succede al corpo quando siamo infiammate? L'infiammazione è una difesa naturale del corpo. Avviene quando il corpo percepisce un pericolo, che può essere una lesione, un'infezione, un'intossicazione, qualunque cosa, e manda una risposta che si dice aspecifica, quindi che non colpisce nello specifico l'agente che causa il danno, ma manda una risposta generica. In tutti i casi, quindi al di là di dove è localizzata, l'infiammazione è sempre caratterizzata da 5 sintomi principali, cioè arrossamento, calore, gonfiore, dolore e perdita di funzionalità della zona interessata. L'infiammazione è quindi un processo normale e sano del corpo che reagisce ad un pericolo. Funziona così. Il corpo percepisce un pericolo. Un complesso sistema di molecole, chiamate citochine pro-infiammatorie, danno l'allarme, producendo l'infiammazione, per dire al sistema immunitario di intervenire. Poco dopo si attiva un network, chiamato asse dello stress, che rilascia un ormone chiamato cortisolo, che cerca di regolare la risposta infiammatoria. In questo modo aiuta il corpo a fronteggiare il pericolo, quindi aumentando il battito cardiaco, velocizzando la respirazione, accelerando il metabolismo cellulare, eccetera, eccetera. Il cortisolo è la risposta del corpo allo stress. È l'ormone che ci rende reattivi davanti allo stress e ci permette di fronteggiarlo. Il problema sorge quando tutta questa roba diventa cronica, cioè quando l'infiammazione non è più acuta e momentanea, ma quando si cronicizza. Questo succede o quando il sistema immunitario non funziona bene, quindi per esempio è iperattivato, per esempio nelle malattie autoimmuni, oppure quando è iperstimolato, cioè quando è continuamente esposto ad agenti che percepisce come pericolosi, come l'inquinamento, il fumo, sostanze tossiche in generale. Lo stress psicologico è uno dei fattori di attivazione dell'asse dello stress. Quindi, quando siamo stressati, ansiati, preoccupati, tristi, arrabbiati o depressi per molto tempo, senza trovare pace, è probabile che avremo tutto l'organismo infiammato. L'infiammazione cronica mette a dura prova la sopravvivenza del corpo, soprattutto quella a lungo termine. Ad esempio, quando lo stress ossidativo, mediato dal sistema immunitario, non si autoregola, velocizza l'invecchiamento cellulare, provocando ancora più infiammazione. Come se il corpo di una persona molto stressata invecchiasse più velocemente. Di solito quando abbiamo il corpo infiammato non dormiamo bene, abbiamo super fame o zero fame, siamo sempre stanche, ci ammaliamo sempre, eccetera, eccetera. Ci sono però due conseguenze dell'infiammazione cronica che ci interessano particolarmente per questa puntata. La prima è il rischio di depressione. Un corpo iperattivato sull'asse dello stress e iperinfiammato è più esposto a rischio di depressione, ansia o disturbi dell'umore. Quindi, da un lato, lo stress psicologico causa infiammazione nel corpo. Dall'altro, l'infiammazione causa stress psicologico. I due fenomeni sono strettamente connessi. Questo perché, ovviamente, quando il corpo è infiammato ovunque, e corpo e mente sono interconnessi. Poiché quello che succede al corpo depresso è molto simile a quello che succede al corpo infiammato, negli ultimi anni moltissimi ricercatori hanno iniziato a studiare la depressione come infiammazione, arrivando alla conclusione che la depressione è un fenomeno infiammatorio. Pensare alla depressione come infiammazione rompe tutte le categorie mediche e ci costringe a tenere conto nello stesso momento dei meccanismi biologici, psicologici, endocrini e immunitari insieme e a pensare il corpo come un ecosistema complesso. Anche nel contesto della farmacoterapia, il legame infiammazione-depressione è evidente. Molta della ricerca sperimentale, infatti, sta sottolineando, da un lato, l'efficacia di antidepressivi per la cura di malattie infiammatorie croniche e dall'altro l'efficacia antidepressiva di antinfiammatori da banco. Un altro legame molto forte è quello fra infiammazione cronica e problemi gastrointestinali. Stomaco e intestino, insieme agli organi del sistema cardiocircolatorio, sono tra i più colpiti dai processi di infiammazione cronica. Sono anche però i più colpiti nei casi di stress psicologico. Non serve essere un endocrinologo per sapere che esiste un legame fortissimo tra pazienti che soffrono di disturbi dell'umore, ansia, stress, depressione e problemi tipo reflusso gastroesofageo, mal di pancia, stitichezza, nausea, colon irritabile. Lo sappiamo tutte, letteralmente. Anche qua, però, se vogliamo chiedere alla scienza, ci dirà che esiste un asse cervello-intestino, gut-brain communication. Cervello e intestino sono connessi da moltissimi processi, che è impossibile spiegare qua. Ma intanto ci basta sapere che il cervello influenza l'intestino e l'intestino influenza il cervello, in un doppio senso. Ci basta ricordare che la serotonina viene sintetizzata al 90% nell'intestino. Quindi, chi ha sofferto di problemi gastrointestinali nell'infanzia, per esempio, ha più probabilità di sviluppare disturbi dell'umore. È uguale chi ha la sindrome del colon irritabile. Allo stesso tempo, patologie psichiatriche o semplicemente momenti di stress di vita molto acuti ci infiammano l'intestino. Quando l'intestino è infiammato, la membrana intestinale è meno impermeabile, quindi è più permeabile. Quindi tutta una serie di batteri che abitano nell'intestino escono e vanno in circolo nel corpo, creando tossicità e arrivando anche nel cervello, provocando neurotossicità, quindi tossicità neuronale. Siamo un paese di esauriti. Gli italiani sono sotto stress. Stiamo Quando il pianeta è inquinato, intossicato, infiammato, l'equilibrio di relazioni interspecie si altera, provocando caos e malattia. La foresta dell'intestino va in fiamme. La sua flora batterica si altera e si intossica, ammalando tutto il corpo, in una sorta di apocalisse del corpo che riflette quella del mondo che ci ospita. All'inizio della puntata abbiamo introdotto il tema della simbiosi, ovvero della necessaria convivenza tra specie viventi diverse. Abbiamo zoomato sulla simbiosi tra il corpo umano e il suo microbiota intestinale, l'ecosistema di batteri, virus e organismi che abitano le nostre budella. Quando la foresta si infiamma, quando l'equilibrio e le dinamiche di simbiosi si alterano, perché il nostro stile di vita e il mondo in cui viviamo inquinano il nostro benessere, la complessità delle relazioni interspecie si riduce e non siamo più olobionti, ma individui fragili. Il nostro organismo diventa terreno di disbiosi, quindi arido, su cui possono facilmente attecchire batteri letali. La disbiosi accade quando si altera il processo di simbiosi, di convivenza. Un corpo in cui il processo di infiammazione, che dovrebbe guarirci, è fuori controllo, così tanto da produrre malattia. Cancro, diabete, infarti, malattie psichiatriche. Il terreno della disbiosi è un terreno in cui ci siamo affermati come individui solitari, in cui non abbiamo più batteri alleati che ci aiutavano a digerire il cibo, a difenderci dalle infezioni e a relazionarci con nuovi ospiti. Abbiamo perso e possiamo solo correre al riparo, usando antibiotici, antinfiammatori e analgesici. Silenziamo tutto, il dolore, l'infiammazione e il corpo che protesta contro un mondo che va in fiamme. La sfida che ci stiamo ponendo è quella di pensare alla malattia come alterazione di un'ecologia, la malattia come alterazione di una relazione tra esseri viventi. È un processo difficile, in cui è necessario far comunicare medicina, psichiatria, psicologia, ecologia, biologia, genetica e antropologia. Ma anche comunicazione, la comunicazione tra specie diverse che abitano insieme. Proviamo a pensare il sintomo come linguaggio, non solo come il corpo che ci parla, ma come le varie specie che compongono il corpo che parlano tra di loro. Il sintomo è comunicazione, una comunicazione che dice che qualcosa non va, che gli equilibri sono sfalsati. Un sintomo, come il dolore alla pancia, si può manifestare per le più svariate ragioni. Un pesticida nel terreno, un trauma psicologico, una modifica nella dieta imposta dall'impero coloniale. Da questa prospettiva, il sintomo, il mal di pancia, non è solo un dolore, ma un tentativo di comunicare qualcosa di più complesso. Forse l'olobionte, nella sua complessità, è in grado di comunicare ed esprimersi attraverso il sintomo. Così la malattia può davvero produrre una critica al corpo sociale in decomposizione. La sfida è provare ad ascoltare quello che il corpo dice, quello che dice di come sta, quello che dice del mondo in cui viviamo. La malattia è politica in questo senso, perché ci parla di un malessere diffuso, legato allo sfruttamento del pianeta, allo sfruttamento di noi stessi e noi stesse a ritmi alienanti in un sistema violento. Ci parla di un cervello sociale che soffre. La malattia è il linguaggio di un corpo che chiede di essere curato. Non solo nel senso di essere guarito, ma anche nel senso di essere preso in cura. La malattia non va solo sedata, non va solo anestetizzata, va soprattutto ascoltata, compresa e ripoliticizzata. I must be lost in my regrets. guess I must be down, I must be stressed. I got like 13 years of age that I ain't still got off my chest. It must be so much more to life if I had diamonds and bullets. I must be stupid, fucking shady, must be down, I must be stressed. I must be cooler than glaciers, I'm straight as the lines on my paper. I must be out of my nature, put that on my Lord and my Savior. I must be ready for more, ready to go, universe spoke. I must be down, I must be stressed. I got like 13 years of age that I ain't still got. E siamo giunti alla fine di questa prima puntata della seconda stagione di Cassandra, il podcast che parla del futuro ma non ti fa venire l'ansia. Ringraziamenti. Allora, ringraziamo prima di tutto Nico per averci prestato la voce per l'alga. Ringraziamo poi tutte le amiche a cui costantemente, quotidianamente rompiamo le ovaie con i nostri svarioni inutili e che generosamente ci passano testi, consigli, materiale che prontamente usiamo per le puntate. E grazie mille invece a tutti gli artisti che hanno partecipato, come sempre, alla playlist di questa puntata di Cassandra. Avete ascoltato Dottore di Troia Machia e Cristian Iffe, si dice così? Poi Lingua in Fiamme dei Queen of Saba, Oscillando di Tonino 3000 feat La Siepe. Grazie mille Tonino, ringraziamo, e tutta la Falafel Fets famiglia, andate a sentirveli. E infine la canzone che state sentendo sotto la mia voce come tappetino, che è Stressed di Doechii. Anche per oggi Cassandra vi saluta, ci becchiamo al prossimo trip streamato dall'Ame del Futuro.